Battuta. In Inghilterra uno degli ultimi problemi, ma l'avevo di tanti, qualcuno è fantastico da raccontare. C'hai presente la camicia che usano i distributori dell'Agip, quella celeste, bellissima. Sì. Una volta c'erano queste camicie. Quindi il distributore dell'Agip, qua i due fratelli mi regalarono una camicia. Quindi rientro da Londra, era il giorno di Pasqua, quindi era un giorno di grande festa. Quindi io passo con la camicia dell'Agip il giorno di Pasqua, quando sto entrando nella gate, quello che sta lì al controllo si meraviglia che il giorno di Pasqua io c'avevo la camicia dell'Agip con la macchietta fotografica. Quindi se mi apro la macchietta fotografica, fai controllo dei bagagli, a borse che portavo, un certo momento mi giro i coglioni, dico: ma senti un po', ma ancora cercate i trafficanti di droga o di diamanti a quelli che portano i capelli lunghi? Cioè, tu guardi che davanti a me era passato un ragazzo che portava una maglietta con scritto una shirt: vita loca, un grammo de rum, un copo di rum, un grammo di coca, che significa vita da matti con un bicchiere di rum e un grammo di cocaina. Dico: cazzo, quello è passato, che il riverendo, quello portato, che ci sono amico, viene a me, morale che appavolare. Vabbè, dopo queste cose le ho fatte 100.000 quando mi faceva, quando diventavo sociale.